Io so che un giorno avverrà da me un uomo bianco, vestito di bianco, e mi dirà: mio caro amico, tu sei stanco, e la sua mano con un sorriso mi darà. Mi porterà tra bianche chiese, di bianche mura, di bianchi cieli, mi vestirà di tela grigia, dura e bianca, e avrà una stanza, un letto bianco anche per me. E vedrò il giorno e tanta gente, anche ragazzi di bianco vestiti, mi parleranno dei loro sogni, come se fosse la realtà. Li guarderò con occhi calmi e dirò loro di libertà. Verrà quell'uomo con tanti altri forti e bianchi, e dal mio letto stretto con cinghie mi legherà la libertà. Dirò: è un fatto, e voi mi legate, ma essa resiste, e sorrideranno: mio caro amico, tu sei matto, la libertà più non esiste. Io riderò, e il mondo è bello, ma tutto ha un prezzo, anche il cervello. Vendilo, amico, con la tua libertà, e un posto avrai in questa società. Viva la vita, pagata a rate, con la 600 e la lavatrice. Viva il sistema che rende uguale e fa felice chi ha il potere e chi invece non ce l'ha. Viva la vita pagata a rate, con le 600, la lavatrice. Viva il sistema che rende uguale e fa felice chi ha il potere e chi invece non ce l'ha. Grazie, e ci hanno detto di farne un'altra, questa non è di Ivan ma è dedicata a, ovviamente a Ivan, che non aveva un luogo preciso nel mondo, sapeva viaggiare fisicamente e mentalmente e culturalmente. E siamo noi a far ricca la terra, a noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. E noi mandiamo a raccolto cotone, riso e grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'alto piano. E noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontano. E da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. Ma siamo noi noi a far bella la luna, noi con la nostra vita a coperta di stracci e di sassi di vetro. Ma quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Ma riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. Che non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua, e abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero, e abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma io ho visto anche degli zingari felici corressi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Ma sì, io ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna. Ubriacarsi di luna, ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Sì, ho visto anche degli zingari felici corressi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. Io ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna. Ubriacarsi di luna, di vendetta. Di guerra. Sì. Sì, zingari felici che si rotolavano per terra facendo l'amore e si bracavano di luna, di vendetta e di guerra. Mi ha accompagnato il maestro Paolo Capodacqua. Grazie. Grazie mille.